Il leone e il cacciatore, da Favole, di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Un certo tal, gran cacciator e appunto gran vantator, racconta il vecchio Babria, aveva perduto un suo diletto cane. Dubitando che fosse ito dritto nella pancia un leon, voleva vendetta. Un giorno chiese ad un pastor: «E dove se sta la mala bestia? Io vo la coda a mozzarle». «Abita là sulla montagna», disse il pastor. «Ahimè, lo so purtroppo che a patto solo di grassi tributi posso al mio greggio assicurar la pace». Il cacciator si volta: «Eccola lì la mala bestia. O ciel, scappa Giovanni. O Giove», grida, «a me mostra una porta dove io possa salvare almen la pelle». Alla lontana molti hanno coraggio di sfidare i pericoli, che poi scappan le gambe in spalla al buon momento. Coraggioso è colui che regge a prova e con la man tocca il cimento e vince. Fine della favola Il leone e il cacciatore. Questa registrazione è di dominio pubblico.